Onde lo tata ilandi luango mambwe. Onde lo mama ilandi luango mambwe. Finga tiata bundwe mwananzone. Kanzi disinga kusenge. Finga tiata bundwe mwananzone. Kanzi disinga kusenge. Wanangola, Eto Bunda, Wanangola, Eto Bunda.